Sessione d'Achisio, sessione d'Achisio, Bachisio, cambio, sessione d'Achisio, sessione d'Achisio, Bachisio, cambio, Achisio, cambio, Achisio. Ma processione non è arrivato quest'anno. Vabbè, ho capito Mari. E Giovanni scusa, ho sbagliato, ho cambiato cosa. Ma nessuno hai sentito Giovanni? Sì, io ti sento già. No, ma c'avevo la doppia frequenza, e sentivo più agli altri che a te. Dove c'era? Ma non sono uscito la processione, no? Adesso non mi ricordavo più io, ero in cucina, ho sentito la musica, ci siamo affacciati, però era quasi tutta passata, capito? Ma chi settore ci sono? Sì, non lo sai, no? Non li ho visti perché io mi sono affacciato alla fine quasi, forse erano già passati loro davanti, capito? Ho capito, capito. Beh, e tu come ti senti, meglio? No, già sono tranquillo già. Oggi la sembra tutto a posto, capito Mari? Sì, ma ecco la voce è bella, bella squillante, bella pulita, diciamo la voce, meglio così, ragazzi sono io, Mari. Adesso sono io che pesca, passa un po' di corrente e si già pescato. Bene, avanti. Periodo brutti so, adesso, già lo sai. Se il tempo comincia a essere un po' balordo, è l'umidità magari la notte, capito? Oppure la mattina presto. L'umidità magari bisogna stare molto attenti, capito? Poi specialmente a me si mi attacca subito, Tu sei come me, io temo, basta un po' di cose e sono subito già beccato, Per quello non mi frega, avanti gli anni poco e la sera, anche se sono a casa, io dentro a casa poco ci sto. Sono sempre fuori all'aria, già mi metto qualcosa in più sopra e ciccia. Perché se mi viene la freddore già con quel problema che ho al naso, addio, tra il naso e mal di testa, ohia, per carità, meglio nulla. Mattia sei giovane ancora, per cui riesci a sopportare più bene, dai. Ma io ho una certa età, capito, sicché comincia a essere un po' pesante, capito? La città, Giovanni, sei un giovanotto a città, cosa che sia. Lei anche oggi ha fatto una bella giornata comunque. Qua giù c'è un bel caldo, si sta abbastanza bene adesso, sentiamo un po' di umidità in questo momento. Ma se non piove è un rebus qua, Se non piove un rebus, l'acqua ci vuole adesso, il periodo suo, il vecchio non ne sta facendo, quella è la faccenda, è un macello, è un macello veramente. La frutta tutta guasta. Lo so, ha fatto un po' di gocce quella mattina presto, ma se una cosa, poi speriamo che continui, almeno, insomma. Anche per la campagna, per pure le strade, non c'è nulla, ha smesso e basta, un caos. È un macello, ma io ho 7 alberi di cacco in casa, ma ti dico che tutti quasi sono, tutti quasi, perché non ha piovuto, per cui il caldo, gli insetti vengono al caldo, capito? Per cui tutto quasi, Maria, infatti non lo sto facendo proprio, perché sono tutti quasi, ecco. Maledizione, un casotto, è un casotto l'acqua, è un casotto, c'è da stare, ma speriamo che riesca a piovere un pochino, basta non fare danno, non è piove la notte, se piove la notte, logicamente, lenta, senza forti piogge, va bene, se no fa un casotto. Vediamo se sentiamo qualcuno, se c'è i Bachisi, forse allora, neanche ascolto. Attenzione, signor Bacchisio, stare... Ma se sono alla processione, avranno un altro canale, capito? Per cui non rispondono, non ci sentono, capito? Non lo so, non lo so, nemmeno ieri li ho sentiti. Ieri ho acceso, ho chiamato, ma non mi hanno risposto nessuno. Così che mi adesso ho acceso io, in questo momento che ho sentito a te fischiare. E, non lo so, però non è, quest'anno evidentemente la festa non è completa, capito? È un po' misera, ecco. No, io ho sentito che è venuto un nuovo prete e sta facendo un casotto, un casotto anche per la processione, ha deciso lui e così via, ha fatto un caos. La festa quest'anno l'hanno fatta dentro, dietro la chiesetta piccolina, capito? Dove sono le suore. Tutto dentro. Maria, evidentemente non ci sono soldi, capito? Per cui quest'anno è bianca la festa. Purtroppo è così. Soldi non ce ne sono. Allora hanno fatto una cosa così, però la processione c'è sempre, ecco. Poi degli altri, infatti tutti gli anni c'erano i costumi anche, mentre quest'anno non c'era nessuno, non ce n'erano, Sì, ma il prete non ha avuto nessuno, è il prete che ha fatto un caos. Cioè, non voleva anche fare fermate, non vuole neanche fare fermate. Adesso così mi stavo dicendo, suora Gravia, c'è la Madonnina, se no, diciamo, c'è tipo con le cappella. Gli dico, ma lei si deve fermare, mette la cosa, nulla, lui ha deciso di continuare dritto, di non fermarsi. A te immaginate, io l'avevo pigliato e cruciavo muro. Un macello. Oh, io quest'anno non sono passati da me, o sono passati magari che io non c'ero, però io tutti gli anni io ho qualche cosa sempre, capito? Però quest'anno non ho visto a nessuno, che non ho dato niente perché non si sono venuti e non so se sono passati oppure no. Sì, cos'è, quest'anno c'è tutta l'estate che hanno fatto festa dietro, no? A organizzare la festa, quello che organizza, capito? Dunque, l'incasso dentro c'era la bancaria dei panini, c'era il chiosco dei bibite, dunque, tutto l'incasso che c'era l'hanno fatto proprio per non andare a chiedere nulla a nessuno, capito Giovanni? Marcello, cosa ci vuoi fare? Mari, mi devo assentare, dai, eventualmente se ci senti chiamo dopo, ok? Ok, dai, ci diamo dopo, anche io mi sto aspettando che venga mio cognato e venga un momento all'altro che mi ha chiamato. Ok, più tardi Giovanni, dai, vai tranquillo. Ok, d'accordo, ci sentiamo, ciao. Ciao. Aspetta, ti bucate il tempo. Non so io. Avessi detto lo giorno. Giovanni, non mi tocci. Oui. Giovanni. Gerocco, sì. Piano, mi sto riprendendo. C'è andato dove? A me mi è passato, io pure quei giorni ero un po' rauco. È appiccicato, sai. Ormai è così, vabbè, venerdì non riuscivo a parlare. Oh, dei ricassetti, no, no, coccata la cursa. Sono stato attenti, periodo brutto, E un attimo a pigliare un colpo d'aria, Bisogna stare attenti, no. Non ce l'ho più, penso. Ricordo quando avevo 20 anni, ci uscivo in moto con la testa bagnata, infatti adesso ne sto prendendo le conseguenze. Lo diceva sempre mamma, vuole asciugare un gambo, no, me ne freghista e poi. Ne sto risentendo. Va. Che cosa? a passo magari un paio di dita, poi si porta a posto, dai. Certo. È un macello, è un macello veramente. Per cui... Certo, a me quando si mi attacca il senso è schizzi, però... Bisogna stare attenti ai colpi d'aria. Poi, specialmente in questo periodo, l'umidità che c'era, specialmente la sera, e anche la mattina, cioè, c'è l'umidità, quello ti becca, per quel motivo, la mattina o la sera tardi. Ciao Maria, io vorrei ti avevo chiamato. Ho capito. Ti ha trovato. E chi è che mi ha chiamato? Avanti. Pensavo che non mi ascoltavi. Che aspetta. Ciao Maria, Franco da Sors. E con chi stai parlando? Ehi, fra, buonasera. È un po' tanto, è triste. Con Luca del Monte. E forse non lo sente perché è quello antenino lui. Luca, lo senti a Franco? A voi, a forte e chiaro. Ma l'hai sentito, Franco? No, negativo, non lo sento per niente. Io non lo so se lui mi sente. Comunque, lo saluto lo stesso. Se non mi sente, me lo saluti tu. Lui ti sente, forte e chiaro. Magari tu lo senti a lui perché lui c'ha un antennino. Ah, ci vuole un gommino dovrebbe essere, è vero lui? Io ne ho altro antenne. Sì, con gommino è, per quello non arriva lì, fra. Capo, va bene, va bene. Lui ogni tanto c'è col gommino. Va bene, da tanto tempo che non accendevo più questa radio. Oggi, stasera, avevo 5 minuti e le ho viste, adesso le spolveriamo un po'. Infatti, non sta entrando più nessuno qua, No, io quando accendo... La 27 accendo anche questo, capito? Sicché se entrano magari ci parlano, se no pazienza. Ma sono settimane e settimane che non entra nessuno, Di qualche volta entra Luca e basta. Ma questo Luca che sto parlando adesso, L'altro è diventato assemio alla frequenza, l'altro Luca. Capito fra? Anche 27, entriamo solo la sera tardi, dalle 6:30 fino alle 8, qualche volta non sempre pure, capito fra? Mi sembra che sta andando e sta morendo anche quella lì. Vabbè, morendo, diciamo che un po' di pausa ci sarà, ma riprenderanno, dai, anche io ero un po' fuori e poi non avendo tempo a dedicarmi qua e invece adesso ho rientrato e sono qua e stasera ho acceso a vedere come era la storia, se c'era qualcuno, ho sentito a te adesso, ma modulate sempre sul 10 o sul 23, sempre lo stesso. Ma infatti non c'è più nessuno, capito? Sono in pochi e raramente entrano qua, E il 27 è la stessa cosa. Io ripeto, quando sono a casa lo accendo, capito? Sia la mattina che la sera. Alle 8 magari dopo spengo e anche se non c'è nessuno lo spengo e ciao. Però di solito la sera, dalle 6:30 in poi, c'è Torre Squalo oppure Barchisio, Marino, eccetera, capito? Ci sono anche io, però non sempre, ecco, ogni tanto ci aspettiamo, forse indaffarati oppure non ce l'abbiamo voglia, eccetera, eccetera, capito? Capo Giovanni, vabbè, loro ci sono lo stesso, dopo vediamo se entrano, ma vabbè, sono le 7:15, non c'è nessuno ancora. Può darsi qualcosa, rinfresca il tempo, che qualcuno si appensa e rientri, poca gente, qualcuno si abbassa. Ok, avanti tu. Oggi ha fatto caldo, Ma tutti i giorni si è appassato caldo, capito? Ne farà caldo, ne farà. Mi sembra che qua acqua non ne ha voglia da farne, per cui cosa dove andiamo a finire in questo tempo così, dopo rovina tutto e dopo non si fa per niente, si può fare. Però caldo lo farà ancora, è parecchio pure. Però fra. Vabbè. Ancora non è tempo, dai. Tra un po' vedrai che dal prossimo mese vedrai che arriverà anche l'acqua, arriverà. E diremo che basta. È un macello, Se non piove, l'agricoltura è all'aria. Ma si giocano gli aranci, cazzo, a calamai la Puglia, a calamai alta, cazzo, puoi immaginare. È inutile che innaffio due volte alla settimana, ma non li basta, ci vuole l'acqua originale, ci vuole l'acqua da su, ci vuole. È inutile che il bello fosse, sì, qualche cosetta li fa, ma ci vuole l'acqua sua, come tutte le altre piante, capito? E no, macello, qui ci dico, c'è che ha fatto a passare Crabendi, pigliando il culo all'aranzio e Crabendi, se ne va in terra, ti puoi immaginare? E se lo fa di papiro, sì, ma non è tanto l'acqua per le arance e queste cose qua, l'agricoltura, è il clima che sta andando, si sta rovinando. È inutile che faccia un giorno d'acqua, oppure dirai tu, è il clima proprio, perché tanti anni fa indietro ci ricordiamo che anche se innaffiavamo noi, il clima era buono. E la roba usciva buona, usciva, mentre adesso no, è il clima che sta rovinando tutto. Ma infatti adesso si può, io ho 7 alberi di cacchi, no? Ma tutti gli anni, sai i cacchi che mette, non hai idea, quintali di cacchi, guarda. È già 4-5 anni che sta andando male, un bel di roba, un bel di cacchi, però comincia a colorare, sono tutti quasi oppure si spaccano, e tutti macchiati, capito? Non riesci a mangiare un cacchi completo, capito? Ma non sai quanto ve ne so, a pigliare l'uso di fare di quanta innanzi, così che infatti non ne sto facendo più, ma si regala un cacco, non ne sto facendo, ma so quante ce ne sono, non hai idea. Guarda, in terra non si può passare, si può immaginare da quante ce ne sono, è sull'albero la stessa cosa. E perché? Perché non ha piovuto e il caldo, tra il caldo e gli insetti che arrivano a caldo e per cui rovinano tutto. Infatti non li gioco fermi, ormai la sapete tutto, ma si vede che cosa vuoi fare, per dirti no. Sì, Maria, ma è così, perché... E allora, noi prendiamo, quando piove fa quattro gocce e fa tutta quella pozzanghera, fa tutto fango, tu lo vedi sulle macchine come ti fa la macchina anche, no? Quella è tutta malattia, non è ecco, quello fa danni all'agricoltura, anche fa danni, perché è tutto malattia. Cioè, è inutile che mi faccia un po' d'acqua e poi mi fa anche fango. È tutta malattia quella lì. E poi c'è anche quello pure, capito? Sono parecchi anni che stanno andando e peggiorando la questione. Ripeto, ma come quest'anno non l'avevo mai vista io, Non l'avevo mai visto, cazzo. Cassetti, ma sai che sta roba regalata, cazzo. Ma adesso non fatemi la regalare perché tu sai tutto questo, non li fa, non conviene farne, capito? Ripeto, se li ciacca pure dal denaro, vado a pigliare, se lo ciacca ti rifarà in mancio e ti fai a beffe. Così che ho mollato tutto e l'ho fatto un paio di volte così qualche poco mangiare in casa, ma non ne faccio più perché se ne butti più della metà, capito? Così che non vale la pena, ecco. E infatti è così, è proprio così. Cosa ci vuoi fare? L'agricoltura sta andando così e poi roba nostra, mi sa che qua non ne mangiamo per niente. Sai che stiamo mangiando sempre la roba di fuori, stiamo mangiando, per carità, che io, con l'agricoltura che abbiamo qua, siamo arrivati al punto di mangiare la roba degli altri, che non serve per niente, non c'ha né sapore né niente. Forse, perché sono a forza di medicine? li fanno, fanno compiere la forza di medicina, cazzo, quella roba che viene fuori, capito? Con grossi produttori e per durare mettono in medicina. Io ripeto, prima medicavo, molti anni fa, ma una volta che mi ha fatto male dando la medicina, non ho pensato di non dare più medicina a nessuno, forse anche per quello. Ma come fai tu a ogni settimana almeno due volte devi dare la medicina alla frutta? Se no non ne mangi, non ne mangi, ma mangi medicina, viene, non viene saporita la frutta, capito? Per cui invece io, la roba mia è tutta saporita, specialmente le pere, i cacchi e tante altre frutte, le susine. Io non sto dando più medicina proprio per quello, tanto io medicheggio, l'altro ne medicheggia e li sento arrivare a Mattesi. Ecco, sì, non è così. Guarda, io quest'anno ho constatato una cosa, che mi hanno mangiato, mi hanno dato un po' di pomodori in una cassetta, un amico di campagna qua vicino a Sorso, mi ha dato. E, guarda, ho fatto il paragone da un pomodoro all'altro. Per carità, neanche avvicino. Il sapore buono che c'è questa a quella che compriamo. Sì, ma è così, questi cacchi che so io sono dolci, zucchero, come il zucchero, sono 600. Come certe volte le davo qualche cassetta così, quando l'assaggiavano, guarda, troppo buoni, vedi quello che viene da fuori, oh, non ne sa buono niente, nuda, oh, manca visita che ci fa giro, per carità, però ripeto, sta rovinando tutto, boh, è il tempo, secondo me è il tempo, capito? Non ce n'è frutta sana, da un tot anno travagliente, fino a un po' mangiare la roba come in grazia di Dio, invece arriva a quel punto si guasta tutto, si la mela, ma te sì. Un bel di mela da buio, si buio, un taganta, e te c'ha, fa mangiare la che pesa, c'ha sempre un cuscino, quindi la pesariti, ti puoi mangiare, e così è l'altra cosa, la stessa cosa, capito? Se no io vado via, io ho un fruttetto, che è tutto fruttetto fatto, ho tutti i tipi di frutta, però come anni fa non ho nemmeno un terzo di mangi, capito? Tutta roba guasta, la bella, quasi così niente fare dell'interno, pratica, ti puoi immaginare, che la bugni risetto e che... perché non è medicata, ma si medicheggio che fa, mangia medicina, ciao, buonanotte. Però anche questo è vero, che se vuoi mangiare qualche cosa come si deve, devi anche adempiere la medicina. Ma le medicine, sai cosa sono? Non ce n'è più medicina come prima, no? Le medicine sono tutti fasulle, queste che salvano adesso, non fa niente. Tu sai, ti ammazzi, pensare che c'è medicina da voi, non fate niente, la bugnino a testi. Perché cioè, le medicine non hanno più l'effetto che avevano 10-15 anni fa, capito? Ma ci sono le medicine ancora, che quelle che ci avevamo prima, ci sono ancora in vendita, ci sono, solo che ci vuole patentino per averle, quelle medicine lì, tipo il cloro, queste cose qua, non il cloro, che cazzo mi sto così dicendo, e le altre, se non mi ricordo, non mi viene il nome, non mi viene. E ci sono le medicine buone. Solo che ci vuole il patentino, ci vuole per andare a prenderle, non è più come prima. Bisogna essere iscritto all'agricoltura, allora va bene, ma noi che abbiamo un pezzo di terreno, che abbiamo un albero di frutta, la patente dei miei migliati, non sarà, però decida, qualche volta si possono buscare, però anche quelli... anche quelli che hanno l'autorizzazione e vanno a prendere medicine, ma sono scarsi, non hanno più l'effetto di prima, capito? Perché anche loro sono sacrificati e dopo ma sai quanta roba perdo, non hai idea, perché le medicine non fanno più effetto. Capo, io ho visto, allora qua passa sempre una macchina, passa il mercoledì e il sabato passa, che vende frutta, e viene da Milis, viene questo qua, C'hanno la campagna loro, c'hanno le arance, i mandarini, le mele, le pere, c'hanno tutto. E stanno portando adesso le mele di loro proprietà. Infatti, quando le ho viste, gli ho detto a vedere se erano roba loro. Dicevano, no, questa è roba nostra, tutte mele nostre, anche le arance, i mandarini, dice, le pere, dice, sono tutta produzione nostra, non è produzione di fuori. Quando è produzione da fuori, già ve lo diciamo, che non è nostra. Poi sì, mi ha detto, dice, si nota, infatti, in effetti le mele non sono di fuori, sono, è roba sarda. È buonissime, ti dico che è belle, né punte né niente. Sono buonissime, sapulite. Magari forse sono da posti freddi, capito? Se è un posto freddo la frutta rimane più sana, capito? Oppure le medicine che aiutano parecchio, capito? Cosa vuoi dire? Boh. Qua fa troppo caldo per quell'insetto, l'insetto arriva, ragazzi, niente, è tutta così, va bene, faccio un reale per la regina, io con un libera tu non hai idea, proprio l'ho cimentato, ragazzi, ma prima sì, ma così la gelai pure, così, beh, è di fare, come comincia a essere un po' giallina, cazzo, e la bugni e li fa all'interno, non puoi immaginare, per carità, anni fa sì, mangiavamo frutta come ti grazie di Dio, ma va, sono 3 o 4 anni sono andando male le piante, ma non le do medicine, come se le piante cazzo, ormai hanno deciso di non darne più medicina, e tanto sono malati noi stessi, perché le medicine non fanno più effetto, capito? Ma abbiamo finare in uva, con ogni apertura di uva, cazzo, però non ti dico niente. Ma invece, la buffa si attacca, la buffa, e rimane anche il budrone, ma non più come prima, ecco, è come sempre, come tutte le cose, perlomeno, da me è così, ecco, tutto lì. Aspetta che facevi dopo Luca, se non si è addormentato. Luca! Io sono qua Giovanni, ascolto, mica il settore che ti ha chiamato, va Tittore. Non so se mi ascolta, ciao Luca, ciao Gianmarì. Ciao Tom, buonasera, io pensavo che fosse la processione. No, più tardi, ma forse sono passate, non li ho visti. Ma c'eri? Io nel battesimo, non c'era nessuno. È solo organizzata dal prete, non l'hanno voluto a noi. Infatti ho visto che non c'era quasi nessuno. Tutta in malora, anche le feste stanno andando qua. Perché c'è anche Franco di Sorso, Otto? Non l'ascolto perché sto usando l'antenna del poggiolo. Bravo, senti attore squalo. No, negativo. Non si E io non ascolto a lui. E lui non ti sente. Anche lui è in condizioni precarie. È quello, insomma. Solo noi ci sentiamo. Lui ti sente comunque, Tore. No, ma Luca, anche Luca ti sente, però tu non senti a loro. Tutto lì. Sì, capo, dai. Sto usando questo del poggiolo. Siete sempre modulati, oh Frank. No, perché non lo senti. Ah, ecco. Perché no? Non usi l'altra. Perché c'è mia figlia in camera e quindi non posso dentro il bar. Se non si può, allora lascia perdere così, meglio così, ok. Stanno usando gli antennini, questi che non arrivano al sempre. Ok, allora riprendi fra. Ecco, sono in Girella, sono in Girella, vuol dire che se non è a casa, perché se sarebbe a casa l'avrei ascoltato. No, c'hanno un attimino sul terrazzino e non arriva anche per quello fra. È quello il fatto. Ah, ecco, dai. Perché poi la posizione che c'ha di casa è favorevole a me. Caspita. Non è tanto messo male. No, lui non può attaccare l'altro che c'è gente, capisci, quella camera, per cui devo usare per forza quella lì, capito? Ecco perché, tutto lì. Ok, Luca. E io la toglio allo settore, mi senti? Allo senti tu, a Luca. Falli fare i gagarismi. Oppure mettersi il naso dove dico io. Penso che mi ascolta, Luca. Luca, mi ascolti. E io, tu mi ascolti. Tore, mi senti? Mari, io lo sento a Luca, forse è lui che non ascolta a me. Ah, ti sente, vi sentite tutti e due strano però, Prova a vedere lui, chiama Tore. E io lo sento, Tore, mi senti? Mari, io lo ascolto, è lui che forse non ascolta a me. È per strano però, beh, lui ti sta ascoltando, mi. Lui ci sta ascoltando, Tore. No, io lo ascolto, tu, forse... Luca, mi ascolti? Eia, tu mi senti? Buonanotte. Ciao, Mari. Hai visto che sei tu che non senti a Luca, ma lui ti sente. E t'ha parlato e non l'ha sentito. Ma... butta sulla terrazzina l'apparecchietto. Ah no, io l'ascolto a lui. È benissimo pure l'ascolto a Luca. Dove mi senti? Perché ti ascolto? Io anche io ti ascolto bene, dai. Cosa vai? Oh, un raffreddore vai. Un po' messo male sotto. Si intende? Bella voce che sei nasino. Rauco Rauco, il raffreddore ha preso. Boh. Ti agito, non sei nudo. Se la gente che non mi dà la cuffia a rinuncia, paese, vai fra. Ehi, ciao Luca! Adesso ti ho sentito. Luca, mi ti ha sentito Franco adesso. Franco, mi senti? Franco, mi senti? 1, 2, 3, prova. Sento. Beh, fra, non hai sentito? No, adesso no. Poco fa l'ho sentito. Che stava dicendo che mi ha messo male. Franco, mi senti? 1, 2, 3, prova. No, mi sento Giovanni. Un casino, bobo. Poc'anzi dice che ti ha sentito, evidentemente. Questa frequenza fa brutti scherzi certe volte, per carità. Vabbè, ripetila tu. Sì, c'è una frequenza che costa un po' garito. Sinché in alta l'antenna riesce a modulare, però quando è in basso, uno o due bassoni puoi intendere. Se non c'è la stella esterna, allora come fai? Trova un ostacolo avanti e non passa, però con l'antenna esterna qualche cosa si riesce a capire. Così è fra. Sì. Sì, due volte sono riuscito a sentire a Luca, magari Luca si è mosso e sono riuscito a capirlo. Ha raffreddato, è tutto rauco, ce lo fa i gagarismi stanotte, acquisizione seria, lui mi raccomando stanotte fai quello che ti sto dicendo, vedrai che ti passa domani. Beh Giovanni, a me la verità mi prende mal di gola forte, poi la mal di gola passa la tosse, però la voce non mi è mai mancata così, io venerdì non riuscivo mai a parlare, mi fischiava. Così facevo, ci va a parlare. Stavo dicendo, e le tartarughe, mangiate triate. E quale tartarughe? Dove hai visto le tartarughe che c'ha quello là? Le tartarughe c'ha quello là. Allora te la faccio vedere a te Luca. Lo siete andati dalla buona Mezzo Maria a Rimani. Ah sì, li ho visti, sì, li ho visti. Ma dove hai portato in campagna? No, non ero io, lo Giovanni. Ma grandi sono piccoli? Non ho capito. Grandi sono piccoli? Erano piccolissime. Sono andato a settembre. Non ho capito. Bene, ripreso la to. Che andiamo a vedere? Luca, dottor, ma era andato? Certo, non se ne può più, no? Sì, alle passe, alle passe, hai fretta pure, lui è giovane, non è come noi, ha certa età. Avanti, fra! Ehi, cazzo! Ehi! stanno divertendo. Ah Luca, Luca, un negretto ci vuole, ti fa passare tutto tranquillo. Prendi Giovanni, un attimino Giovanni che mi allontano, vado con te a Capicolino. D'accordo. Chi si negretto li fa male a Luca? Vedo li fa male, certo l'avrebbe passato subito tutto, però non è possibile, vero Lu? L'ho capito Giovanni. Sì, meglio, meglio che si dà e tu riprenditela. Allora! Meglio Giovanni! Vabbè, ti chiamo e non mi rispondi. No, perché mi sono allontanato un attimo. Quindi? Prova a chiamare a Mr. Bacchi, sì. Io non lo so se mi ascolta lui a me, boh. Attenzione, Bacchisio. Boh. Attento, signor Bacchisio. Franco si è assentato un attimo, va. Capito, mi hai lu. Mi sa che sono con un sordo, Giovanni. Oh, capito niente. Addirittura, vuoi sicuro mi prova. E cosa vuoi ti dica, Giovanni? Vuoi tu cava me sta volta? Sì, comunque siamo andati a vedere a Gio Maria, dai. Oggi siamo andati al funerale. Ma oggi era, no? Siamo di gente anche. Posso immaginare, è una persona abbastanza conosciuta, per cui... No, io ripeto, non l'ho conosciuto, ecco. Può darsi, magari l'ho conosco, però non lo so, boh. E poi magari quando la persona si conosce è già un altro discorso, non lo conoscevo e per cui non potevo andarci. Ok, vabbè. Poverino, malandato era quanto mi stava dicendo Luca, capito? Vabbè, purtroppo c'è una malattia di mezzo e non la prendi in tempo, occasione Giovanni. Infatti, un accello. La vita è così, oggi ci sì, domani no, purtroppo siamo di passaggio, per cui bisogna prendere come viene. Uno deve mangiare e bere finché vive, dopo gli dà ragione. Benuto. Infatti, un giorno di passaggio, speriamo. Noi speriamo, poi se mi ha segnato, cosa mi fa? Sai com'è? È un attimo. Sono rientrato. Ma è meglio più tardi che mai. Vabbè, quello è certo, Però, a essere più tardi, però che sia perfetta la persona sana, ma per essere magari in condizioni precarie e a una certa età, meglio gli dà a Marco uno supplemento e dai genitori, capito? Sono rientrato, Giovanni. Infatti, è così. Luca, com'è te che stai? Allora già ti ho sentito, Franco, stavano parlando. Franco, mi senti adesso? Arriva fortissimo Franco Giovanni, addirittura arriva più forte di Tore pure, ha detto nelle nocchi. Ti ha sentito un attimo poco fa e poi non ti ha sentito più e non ti sente. Adesso è rientrato che si era sentato un po'. È rientrato ma evidentemente non ti ha sentito lui. Ma dico, arriva più forte lui che Tore, che tu sono qua vicino. Già lo credi già. E arriva Bomboletta anche qua. Io che sono piccolino, però nonostante piccolino all'arrivo, vero Fra? Ma certo, Luca, sono 1,75 alto, probabilmente è per quello. Dillo Giovanni che io sono 1,77, per quasi fai un peso 78 kg, dai circa. 1,77 Luca, Fra. E allora mi frega, però io a lui arrivo, ma lui a me no, ed è più lungo di me. Vabbè, le condizioni sai come sono. Ma lo sappiamo senza specificarlo, per cui per quello, vai. Se fosse avuto la possibilità l'avrebbe fatta anche lui, dai. Sì, no, ma per carità, non è quello che volevo dire io. Tanto. Così Giovanni, comunque dai. andiamo piano piano, le cose si fanno piano piano, si fanno. Così è Giovanni, come stavi dicendo poco fa, che ti ho sentito, la vita bisogna viverla al momento. Ma è così allora, e parte inutile che uno se la prenda, però certe volte rimari lì da sé, eri bravi, ci si ribuccia, ecco lo faccio come te, invece devi fare il rovescio, eri bravo ad assalli e appoggiarsi si rimari, però sicuramente Salvatore basta con il sogno, non si ha diretta e fatti come ti ribiati, questo non fatto fra. Ma secondo me è d'accordo con i politici, a chi si busca i bravi, che non fatene mai danno, non fatene mai nulla, e lascia rimare. Li lascia per che cosa? Perché lavorano gli avvocati, lavorano i magistrati, lavorano tutti, e tutti mangiano di là. Ecco Palosa, invece con i bravi non mangiano nulla. E anche quello è vero. Per carità, specialmente oggi più che mai, più stiamo andando e più ci stiamo diventando fra. Oh già. Yeah. E vabbè, avanti tu. Io sto ascoltando, sto sentendo a te, però Franco non l'ascolto. Vabbè, andavo a vedere un attesso, saluta Miro. Ti saluta frattore. Ma vi devo salutare anch'io, dai, che mi stanno chiamando e per cui ne approfitto, dai. To. Ti saluto, saluto in casa, a domani se coincide. Ciao Luca, buon proseguimento, mi raccomando. Salute, fai quello che ho detto io, mettici il naso dentro, veda che ti passa. Ti ha mai capito. Ciao fra, mi ha fatto piacere che ti ho risentito, saluto di casa. A domani se coincide, ciao. Scappa Giovanni, la stasera penso di esserci, dai. Verrò anche sul canale 23 a vedere un po'. Niente. Comunque salutoni anche a Luca e a Tore. Già ce la ascoltiamo alle prossimine. Salutoni. Ce la ascoltiamo alle prossimine. Magari ti ascoltiamo migliore di stasera di fare un questionario anche a 3 o a 4. Ok, ciao. Ci sentiamo tra le prossimine. Ciao Gio Maria, Tore e Luca. Ciao Fra, ci sentiamo, ciao, noi siamo sempre su 23, da lì non ci muoviamo, Ciao, ci sentiamo, vai tu. Ok, ciao Gio Maria, ci sentiamo alle prossime, quando mi libero. Ok. Luca, tanto tu stai chiudendo lo stesso, ci sentiamo alle prossime. Ehi, a te, ho cenato, dai, così per le medicine. A domani se Dio vuole. Ciao Gio Maria, saluto a Franco anche a parte nostra, dai. Ciao, buonanotte a tutti. Ok, ciao Fra, ma ciao Lugo. Oh Fra, ti saluta dottore Luca, ciao. Ok, ricambiati anche per me, dai. Salutami se non mi sento. Ok, vi saluto, ciao, ti chiudo. Ciao Gio Maria. Ciao Tò.